Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Troppi appalti affidati con provvedimenti di emergenza, la denuncia dell'Authority per i contratti pubblici. Pomigliano, urne aperte, si vota all'accordo Fiat-sindacati. Maturità, 500.000 alle prese con la prova d'italiano, nelle tracce Foibe, Primo Levi e perfino gli UFO. Mondiali di calcio, il Sudafrica gioca il tutto per tutto contro una Francia all'ultima spiaggia. Una buona giornata dalla redazione e da Laura Bettini. Allarme corruzione, il mancato rispetto delle regole annienta gli onesti. Così denuncia l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e sui grandi appalti, critica il ricorso a provvedimenti di emergenza. In diretta con noi Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. Corruzione, scarsa trasparenza, esagerato ricorso alle procedure in deroga, eccessiva complessità della normativa. Sono tante le patologie di cui soffre il mercato degli appalti pubblici, secondo Luigi Giampaolino. In particolare il presidente dell'Authority nella sua relazione annuale punta il dito contro i gravi episodi di corruzione e di illegalità che, dice, si ripetono nella pubblica amministrazione con ciclicità preoccupante. Il mancato rispetto delle regole è causa di profonde sleale alterazione della concorrenza e a soccombere. Secondo Giampaolino sono le imprese oneste costrette ad uscire dal mercato. Nella sua relazione il garante ha preso in esame anno per anno dal 2001 l'andamento degli appalti gestiti in regime di cosiddetta emergenza con ordinanze di protezione civile, dai grandi eventi come il G8, il mondiale di nuoto, le celebrazioni per l'unità d'Italia, il terremoto d'Abruzzo, ed ha rilevato un incremento che ha raggiunto il picco più alto nel 2009 con 49 ordinanze in parte giustificato con il terremoto d'Abruzzo. Per l'autorità il continuo riproporsi dell'emergenza fa cadere i requisiti di eccezionalità ed imprevedibilità che giustificherebbero poteri straordinari e ordinanze in deroga alle regole. Ma le deroghe, ammonisce l'Authority, sono un rimedio peggiore del male. Da Roma è tutto, a voi la linea. Grazie ad Alessandra Schepisi. Restiamo in tema di illegalità. Nei primi 5 mesi del 2010 la Guardia di Finanza ha scoperto redditi non dichiarati al fisco per 22,2 miliardi di euro, a cui devono aggiungersi omessi versamenti di IVA per 3,1 miliardi di euro. Scoperti inoltre 3.790 evasori totali, quindi che non avevano mai presentato le dichiarazioni, occultando redditi per 7,9 miliardi di euro. Sono dati del rapporto della Guardia di Finanza che stila un primo bilancio delle sue attività del 2010. Oggi le Fiamme Gialle ricordano il loro 236esimo anniversario dalla fondazione e le celebrazioni si apriranno stasera a Roma allo Stadio dei Marmi. Nuovo confronto di maggioranza oggi in Senato sugli emendamenti alla manovra economica. I senatori di PDL e Lega dovrebbero riunirsi nel pomeriggio. C'è in diretta con noi Andrea Viali. Andrea, buongiorno. Buongiorno, sì, Laura, nel pomeriggio a Palazzo Madama governo e maggioranza si riuniranno per fare il punto sugli emendamenti alla manovra correttiva. Lo ricordiamo, sono oltre 2.550 quelli arrivati in Commissione Bilancio, la metà presentati dal centrodestra, fra questi anche quelli che chiedono di riaprire i termini del condono edilizio e del condono fiscale tombale. Non ci saranno nuovi condoni, hanno però assicurato governo e maggioranza dopo le critiche dell'opposizione ma anche delle associazioni ambientaliste. Le proposte di modifica su cui ci sarà l'ok da parte dell'esecutivo saranno probabilmente raccolte in un maxi emendamento e fra le novità è possibile anche una rimodulazione dei tagli ai bilanci delle regioni, tagli che dovrebbero essere meno pesanti per le regioni virtuose. Per ora da Palazzo Madama è tutto. E grazie ad Andrea Viali. Già ieri la presidente degli industriali Emma Marcegaglia aveva chiesto al governo di prendere una posizione molto forte su Basilea 3, il nuovo accordo sui requisiti patrimoniali delle banche che rischia di far stringere ancora di più i cordoni della borsa agli istituti di credito nei confronti delle imprese. Se n'è parlato oggi all'incontro mercati, banche e imprese verso Basilea 3, questo il titolo della giornata del credito, la 42esima giornata del credito. Vincenzo Boccia chiede di rinviare l'introduzione dei nuovi criteri e alle banche di valutare anche le capacità future delle imprese e non solo la situazione finanziaria. Sentiamo quindi le parole del vicepresidente di Confindustria Boccia. Oggi c'è, diciamo, una premura su questa questione di Basilea 3. Noi riteniamo che sia più prociclica di Basilea 2, il che significa che in fase recessiva come quella attuale corriamo il rischio di un'altra potenziale ristrettezza del credito che va a danno dell'economia reale. E quindi la questione è quando applicarla, perché se si sbagliano i tempi e si anticipano troppo, questo potrebbe creare qualche problema all'economia reale, che in questo momento non dovrebbe invece risentire di effetti restrittivi della politica di Basilea 3. La seconda questione è quella di aprire, diciamo, un confronto con le banche affinché la parte qualitativa della valutazione delle aziende sia sempre meno marginale rispetto alla parte quantitativa. Ci riferiamo a quei progetti che abbiamo chiamato progetto futuro, che è quello di avere la capacità di capire la visione e il futuro delle imprese, valutandole anche per il futuro e non solo per la constatazione di elementi quantitativi significativi, però che non possono essere, come dire, l'elemento di valutazione delle imprese. Andiamo all'estero adesso per parlare di un'altra manovra economica, quella britannica. Oggi il ministro delle finanze Osborne presenterà il piano di bilancio straordinario. Sarà probabilmente il più duro dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Sentiamo. La sfida non è da poco. Tagliare un deficit da record pari all'11% del PIL è il debito tra i più alti dell'eurozona. Per questo, dalla valigetta rossa del cancelliere dello scacchiere George Osborne, oggi usciranno misure preannunciate come le più draconiane di un'intera generazione. A 50 giorni dal suo ingresso all'11 di Downing Street, il cancelliere della coalizione Tory Lib Dem, Osborne, presenterà la sua prima finanziaria, una finanziaria d'emergenza che dovrà segnare il difficile salvataggio dell'economia britannica dalla recessione. Previsto l'innalzamento della soglia di tassazione, per cui 900.000 lavoratori britannici saranno esentati dalle tasse. Una misura pensata però per ammorbidire tagli alla spesa pubblica e pesanti incrementi su IVA e contribuzione pensionistica. Per raddrizzare i conti pubblici britannici, nell'anno finanziario sono previsti 7 miliardi di euro di tagli. Agli enti locali 1 miliardo e mezzo di euro in meno, ma la scure si abbatterà anche sui sussidi di disoccupazione, università e assistenza all'infanzia, mentre Osborne ha assicurato che saranno misure eque e progressive. Giorgia Scaturro, GR24, Il Sole 24 Ore, Londra. Torniamo in Italia, andiamo a Pomigliano d'Arco, dove è il giorno del referendum sull'accordo proposto da Fiat per riportare in Italia la produzione della Panda dalla Polonia. Le urne chiuderanno alle 21, l'impressione è che i lavoratori mostreranno il senso di responsabilità che serve, ha detto stamattina la presidente di Confindustria Marcegaglia. Sul campo però c'è per noi Paolo Picone. Paolo. Sì, Laura, buongiorno. Sono circa 2.000, secondo gli ultimi dati, dipendenti dello stabilimento Fiat di Pomigliano d'Arco che nel corso della mattinata hanno già espresso il proprio voto nel referendum sull'accordo che dovrebbe garantire la produzione della nuova Panda in Campania. La commissione elettorale, che controlla le operazioni di voto per il referendum dopo alcune lamentele, ha esposto nel sito un cartello che vieta l'uso dei telefonini cellulari all'interno delle urne. Comunque in fabbrica regna un'atmosfera di totale tranquillità. Chi è all'interno dello stabilimento descrive infatti file di lavoratori pronti al voto e in alcuni reparti proiezioni del DVD realizzato dall'azienda per spiegare i termini dell'intesa. Clima teso invece all'esterno dello stabilimento, a pochi metri dall'ingresso numero 2, dove si stanno ripetendo da stamani con frequenza battibecchi tra rappresentanti dei sindacati firmatari dell'accordo separato e un piccolo gruppo dei Copas. La situazione è comunque tenuta sotto stretto controllo dai carabinieri e della polizia presenti sul posto. Secondo i sindacati, per le ore 14, alla fine del primo turno, si prevede una percentuale di voto di oltre il 90%. L'assenteismo è bassissimo, il 2%. C'è insomma una gran voglia da parte degli operai di esprimersi su questo accordo decisivo per il futuro di Pomigliano, come ascoltiamo dalle voci che abbiamo raccolto. Sicuramente sì, ho bisogno dello stipendio, come tutti gli altri, quindi voterò sì. Speriamo tutti in un sì che porterà solo lavoro, il resto sono chiacchiere, non so che cosa potranno risolvere, il resto speriamo siamo soltanto noi artefici del nostro destino. Andiamo alla politica. Antonio Di Pietro ha annunciato querela contro Elio Veltri, suo ex grande amico, cofondatore dell'Italia dei Valori, in seguito all'esposto per il quale la Procura di Roma ha aperto un fascicolo che vede indagato Di Pietro per una presunta truffa sui rimborsi elettorali delle europee del 2004. Secondo Veltri, i rimborsi non sarebbero stati incassati dal partito, ma dall'associazione privata l'Italia dei Valori. Mi aspettavo la querela, nessun problema, dice l'ex parlamentare al microfono di Maria Luisa Pezzali. Era scontato, quindi deciderà il magistrato di Roma che cosa fare. Questa vicenda ha due aspetti, uno politico-morale e uno probabilmente penale. Di Pietro dice che il partito e l'associazione in cui sono confluiti i rimborsi sono la stessa cosa. E questo lo dice lui e lo deve dimostrare al magistrato, perché ci sono già due magistrati, uno di Roma e uno di Monza, che dicono che sono separate. E poi ci sono soprattutto gli statuti dell'associazione che lo dicono. Voglio dire, non si può negare l'evidenza, se poi costituisce reato o meno, questo lo deve decidere il magistrato, non è né compito mio né compito di Di Pietro. Voi eravate grandi amici, che cosa è sì, successo? Sì, io sono, me ne sono andato nel 2001, abbiamo fondato l'Italia dei Valori nel 98, nel 2001 me ne sono andato, e quando me ne sono andato non sapevo niente di tutte queste cose che ho saputo nel 2006, perché è arrivata a me una lettera ed è arrivata anche al capo del governo, al capo dello Stato, al ministro della giustizia. Io non sapevo nulla, però nonostante questo me ne sono andato perché i comportamenti non mi convincevano, mi pareva che non ci fosse chiarezza neanche nell'Italia dei Valori, perché quando si fa una battaglia durissima sull'etica, sull'etica pubblica, sulla questione morale, sulla trasparenza, bisogna essere come la moglie di Cesare, al di sopra di ogni sospetto. Legalizziamo e tassiamo la prostituzione, siete d'accordo? Era questa la domanda del nostro sondaggio di oggi, lanciato in Mattino 24. Rosalia Guarnieri, sindaco Lega Nord di Albenga, provincia di Savona, vorrebbe riaprire le case chiuse, e questo ha detto stamani al microfono di Alessandro Milan. Ritengo comunque che sia anche un motivo di ordine pubblico ed è per questo che è nata la mia richiesta, diamogli la partita IVA, uguale a dire regolarizziamole, perché non può questa attività essere svolta su strade pubbliche vicino ad abitazioni, vicino a scuole, vicino ad istituti che vedono il passaggio dei bambini, delle famiglie intere, eccetera. Per cui la mia richiesta è nata da questa. Lo sfruttamento c'è. Allora io mi chiedo, ma dobbiamo continuare a far finta di niente o dobbiamo affrontare il problema per risolverlo nei migliori dei modi? A quanto pare la maggioranza di voi la pensa come il sindaco di Albenga, 93% i sì, 7% i no. Buongiorno, nella prima parte di GR24 abbiamo parlato dell'allarme corruzione, il mancato rispetto delle regole annienta agli onesti, così ha denunciato l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, criticando per i grandi appalti il ricorso a provvedimenti di emergenza. Nei primi 5 mesi del 2010 la Guardia di Finanza ha scoperto redditi non dichiarati al fisco per 22,2 miliardi di euro e ha individuato 3.700 evasori totali. Oggi nuovo confronto di maggioranza in Senato sugli emendamenti alla manovra economica. Intanto, sempre in tema di manovra economica, la Gran Bretagna prepara il piano più rigoroso dalla Seconda Guerra Mondiale a questa parte. Ma adesso è il momento di parlare di maturità. Come dicevamo, sono ancora sui banchi molti dei 500.000 studenti circa che stanno affrontando la prima prova scritta dell'esame di maturità, è la prova di italiano. È ormai tradizione, qualche minuto dopo le 8.30 le tracce dei temi sono già in rete e sono queste. Per l'analisi del testo, un brano tratto dalla prefazione del libro di Primo Levi, La ricerca delle radici. Per il saggio breve, il preferito dai ragazzi, oppure la redazione di un articolo di giornale, gli studenti hanno scelto fra Piacere e piaceri, con documenti di Ungaretti, D'Annunzio, Leopardi, Bertolt Brecht. La ricerca della felicità, fra documenti la Costituzione italiana e quella americana. Il ruolo dei giovani nella storia e nella politica. Parlano i leader, con brani tratti da discorsi di Mussolini, Togliatti, Aldo Moro, Giovanni Paolo II. Siamo soli, con documenti da Kant a Stephen Dick. Un debutto questo degli UFO in un esame di Stato. Per il tema storico sono state proposte invece le foibe, argomento ancora molto sensibile a livello politico. Infine il tema generale, l'esame di un brano sulla musica, anche questa è una novità, del filosofo greco Aristotele. Maria Piera Ceci, GR24, Il Sole 24 Ore. E dicevamo che molti sono ancora sui banchi, infatti per la prova sono a disposizione 6 ore, i più veloci però stanno già uscendo, e allora ci colleghiamo con il nostro Matteo Finco, che si trova fuori da una scuola milanese. Matteo. Siamo qui con Federico dell'Istituto Tecnico Vittorio Conti. Federico, che tema hai scelto? Io ho scelto quello sui giovani, la politica e la storia, in relazione con dei messaggi dei vari leader. Che spunti c'erano? c'era un estratto da un discorso di Togliatti, uno da un'enciclica di Giovanni Paolo II, un brano di Mussolini, era proprio in relazione alle masse dei giovani, più che altro. E tu su cosa hai puntato? Qual è stato il centro del tuo discorso? Io più che altro sul bisogno di riavvicinamento dei giovani alla politica. Senti, sei stato uno dei primissimi a finire, sei molto veloce. Sì, sì, ho trovato adatto a me, diciamo. Senti, domani invece c'è la prova di matematica, di fisica per voi dell'Istituto Tecnico. Ti senti più preparato rispetto all'italiano? Molto meno. Infatti adesso mi metterò a studiare abbastanza duramente. In bocca al lupo. Crepi. Grazie. Abbiamo parlato nella prima parte di GR24 di crisi economica. C'è forse un unico aspetto positivo in tutto questo, cioè che si riducono i consumi di droghe. Sentiamo. Complice probabilmente la crisi economica, i consumi di droga in Italia sono calati. Nel 2009 i consumatori sono diminuiti del 25,7% rispetto all'anno precedente, invertendo così una tendenza che andava avanti da anni. E il dato più positivo che emerge dalla relazione annuale al Parlamento sull'uso di sostanze stupefacenti e sullo stato delle tossicodipendenze, presentata oggi a Palazzo Chigi dal sottosegretario Carlo Giovanardi. La minore disponibilità di denaro ha inciso soprattutto sui consumatori occasionali, quelli dello sballo da fine settimana per intenderci, ma c'è un'altra faccia della medaglia. A sostituire le droghe, tra questi consumatori ora c'è l'alcol, meno costoso e più accessibile. L'assunzione quotidiana è aumentata dal 2007 al 2010 del 18,2%. Tra i dati evidenziati anche l'aumento di ricoveri per uso di cocaina e cannabis, mentre si conferma la tendenza alla diminuzione dei decessi. La droga infine viaggia sempre più sul web. Online si offre, si acquista e si attivano blog, forum e social network per scambiarsi consigli ed informazioni. Katia Caramelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Prima di andare all'estero, notizia appena battuta dalle agenzie. La Procura di Roma ha formulato la richiesta al GIP di rinnovo delle misure cautelari nei confronti dei 4 dei 7 indagati nell'inchiesta sull'appalto della scuola Marescialli dei Carabinieri di Firenze. Riguardano l'ex presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Angelo Balducci, quello della Toscana, Fabio De Santis, l'imprenditore Francesco Maria De Vito Piscicelli e l'avvocato Guido Ceruti. Dicevamo all'estero, oggi in Turchia 4 vittime per un attentato a Istanbul. L'esplosione è stata provocata probabilmente da un telecomando, provocata al passaggio di un convoglio militare in una zona in cui ci sono molte abitazioni di militari. I sospetti cadono sui ribelli curdi del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, noto come PKK. Più di un migliaio di persone invece sono date per disperse in Brasile a causa delle piogge torrenziali che si sono abbattute sul nord-est del paese. Una trentina al momento i morti accertati. Lo sport, dopo la goleada del Portogallo che ha rifilato 7 gol alla Corea del Nord e la reazione della Spagna che ha battuto 2-0 l'Honduras, oggi ai mondiali in Sudafrica si chiudono i gironi A e B. Sono 4 le partite in programma, alle 16 Francia-Sudafrica e Messico-Uruguay, alle 20:30 Nigeria-Corea del Sud e Grecia-Argentina. Per i Blues, ma anche per i padroni di casa, la giornata è cruciale. Con noi Dario Ricci. Sì, buongiorno Laura, buongiorno da Rustenburg, dove si giocherà alle 16 appunto Uruguay-Messico. Parlavamo di esami di maturità, è il giorno degli esami soprattutto per tutto il Sudafrica. Impresa disperata quella di Bafana Bafana, un solo punto a pari merito con la Francia, mentre Messico e Uruguay hanno 4 punti, quindi Sudafrica che potrebbe essere eliminato clamorosamente, sarebbe la prima volta nella storia che la squadra ospitante non passerebbe il primo turno, anche a fronte di un successo contro i Galletti allo sbando, visto le tensioni che hanno squarciato il gruppo di Domenech. E oggi tutto il paese spinge il Sudafrica verso l'impresa, il Daily Sun titola e Bafana è la vostra ora, il Times e siete l'orgoglio della nostra nazione, ma sottolinea anche qualsiasi cosa accada dobbiamo continuare a celebrare la Coppa del Mondo già da domani, come ha chiesto anche il presidente Zuma. Andate a prenderla questa qualificazione, titola il Tesu Wetan. Per quanto riguarda le curiosità, ti sottolineo che il Science ha intervistato anche un'astrologa che cerca di conforto nelle stelle e il responso è stato che i Bafana Bafana non hanno più del 40% di possibilità di qualificarsi e di vincere oggi. Staremo a vedere se verranno smentiti anche gli astri. Grazie a Dario Ricci, vedremo la cabala come andrà. Cambiamo argomento e torniamo in Italia. Love Potion, pozione d'amore, definisce così la miscela dei suoi ingredienti, un festival che parte oggi a Milano. Lo spirito è quello di un solstizio di estate milanese, clima festivo e, se vuoi, caldo. Dal 22 al 29 giugno siamo al Teatro Strehler, si racconterà qualcosa di diverso dai mondiali di calcio. Parola di Giampaolo Marzi, direttore del 24esimo Festival Mix che parte oggi a Milano. Rassegna, come dice il sottotitolo, di cinema gay, lesbico e queer culture. Cultura queer che ora sembra essere uscita dagli steccati e aver permeato la cultura contemporanea. Credo che la parola queer stia ad indicare la diversità in generale, ed è vero, infatti non siamo tutti uguali. Forse questo, attraverso le differenze e le diversità sessuali, è il modo più radicale per esprimerlo. Non solo cinema, ma DJ set e incontri dedicati ai libri e dedicati a tutti. In questa miscela, in questa love potion che abbiamo costruito, dentro ci sta anche la trasversalità, l'esserci indipendentemente dalla propria identità per riflettere su temi legati all'identità, un piccolo passo avanti rispetto magari a circostanze dove l'aggregazione è assolutamente limitata all'appartenenza. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Da domani quarta edizione di Letteraltura, il festival della letteratura di montagna, viaggio e avventura, 120 eventi tra incontri, spettacoli, laboratori e più di 150 ospiti nazionali e internazionali, da Stefano Benni a Mauro Corona, ma sono solo alcuni nomi. Letteraltura muoverà i primi passi da Verbania fino al 27 giugno per poi trasferirsi nei fine settimana successivi a Stresa, a Cannobio e infine a Varzo. Il presidente dell'associazione Letteraltura, Giovanni Margaretti Garoli, al microfono di Adriana Fracchia. Questo far girare il festival nelle valli serve appunto a promuovere un territorio montano che è messo in ombra dalla fama del lago e del Golfo Borromeo, che è conosciuto in tutto il mondo, ma la montagna non trae beneficio insomma da questa fama del lago, ecco. Quindi abbiamo pensato di fare un'iniziativa dedicata proprio alla montagna. Non abbiamo un solo tema, l'idea è quella di fare una festa, quindi di fare tante cose diverse, però alcuni percorsi tematici legano tra loro alcuni di questi eventi. Uno, per esempio, ogni anno noi scegliamo un animale, quest'anno parliamo dell'asino, che è un posto d'onore nella letteratura fin dall'antichità, e che tra l'altro è un animale molto familiare a noi, perché l'asino viene usato per pulire gli alpeggi, no? E quindi faremo degli incontri sull'asino. Tra l'altro c'è un libro che ha scritto Francesca Rigotti, proprio Asini e filosofi, l'ha scritto proprio in occasione di Letteraltura, e così via insomma. La letteratura di montagna è una letteratura che qualcuno contesta persino che si possa individuare un genere di questo tipo, no? Noi lo prendiamo un pochettino un po' come pretesto, diciamo, perché in realtà vogliamo parlare di montagna sia dal punto di vista di chi la guarda dal basso, sia dal punto di vista di chi la vive, no? E io credo che ci sia un interesse crescente per la montagna. È tutto per questo GR24, curato e condotto da Laura Bettini. In regia ringraziamo Paolo Corleoni, ci ritroviamo per la prossima edizione alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.